Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Dentro Higuain, bel pallone, arriva la chiusura, poi Gonzalo, Higuain, 2-1, ma non esulta. Burdisso prova a colpire, deviazione, la palla sulla traversa e poi dentro, e c'è la ribadita Simeone, prima ha toccato Rigoni, poi una deviazione, poi Simeone, un pomeriggio di ordinaria follia Marassi per la Juventus. Ancora De Rossi, un intervento che però Higuain salta, Higuain ancora in area di rigore, sinistro, e il pipita Higuain, golasso di Higuain. Tentativo di sponda da parte di Maggio, che poi ribala, 1-0 Juve, al primo fondo, la sblocca lui. Corre Quadrado, al cross in area di rigore per Higuain, sbuca dalla parte opposta Mandžukić, e parte il primo, qui siamo stati la rivelazione, la sorpresa, tutti gli altri siamo partiti giustamente come favoriti perché sulla carta lo eravamo, però dico anche per chi magari non è avvezzo a certe vittorie, alla continuità di vittorie, che anche se si è più forti riuscire a vincere per così tanti anni di fila è un sacrificio enorme a livello nervoso tutti i giorni per migliorarsi, tutte le domeniche per vincere, perché ogni pareggio è una mezza sconfitta. Vedi, Pierluigi Pardo con Giorgio De Luca, nostro dottore, Gianmarco Ferronati in regia e Edoardo Lavezzani in redazione. Abbiamo fatto godere con questo film sonoro del campionato un po' di più Massimo Giletti. Beh sì, davvero, mi avete fatto godere anche oggi pomeriggio. sì. Pardo, soprattutto con quelli di Higuain, che secondo me è l'uomo che ha fatto poi la differenza. Higuain mettereste in copertina? Sì, perché Higuain è l'uomo che mancava questa Juventus dai tempi di Trezeguet, uno a cui dai un paio di palle e un gol lo fa, e ha segnato nei momenti difficili, è sempre emerso lui. Io metterei Allegri senza discussione, se devo scegliere tra i giocatori, Gigi Buffon, che è quello che abbiamo sentito parlare. È un discorso che abbiamo fatto anche ieri, Pierluigi. Tu? Difficilissimo. Forse metterei più Dybala di Higuain. Ma anche Mandžukić, perché la svolta tattica della Juve alla fine è stata resa possibile dall'intenzione di Allegri, ma anche dal senso di sacrificio della squadra, e Mandžukić è quello che si è sacrificato di più in quel tipo di ruolo. La difesa, lo sappiamo, è la migliore difesa d'Europa e forse del mondo, quindi è molto difficile. Higuain, certo, io ho di Higuain. Non sai da dove cominciare. La verità è che Allegri si è inventato qualcosa di... Di clamoroso con questo schema. Mario Sconcerti sul Corriere della Sera dice qualcosa di mai visto. In realtà io l'ho visto almeno in parte nel Milan di Ancelotti, che non a caso il nostro amico Crosetti dice è il più grande allenatore italiano insieme ad Allegri e più di Conte, perché meno integralista. Massimo Giletti, c'è stato da tifoso un momento del campionato? Perché i numeri secondo me in questo caso sono illusori, 4 sconfitte, 26 gol subiti, quindi più dell'anno scorso, i distacchi alla fine ridotti su Roma e Napoli, però c'è stato qualche momento in questa stagione in cui hai avuto il timore di poter perdere il titolo? Dimmi la verità. Ma tu quando inizi dall'estate a vedere i titoli dei giornali, dove danno tutto per scontato, ecco che escono poi le parole di Buffon, perché vincere sempre, anche se si è più forti, in continuità è vero, è un vero miracolo, ma si riesce a fare questo, se vogliamo dare dei meriti, allora diamoli a una società. Cioè, senza una società tu non vai da nessuna parte. La Juventus è l'unica squadra che ha una società forte, continuativa, Paratici, Marotta, grande Nedved, perché Nedved viene sempre citato poco, ma è un uomo molto importante all'interno del sistema perché parla con i giocatori. Marotta insomma, è quello che ci ha portato a questa soluzione, trovando anche Allegri, perché Allegri l'ha voluto Marotta. Ricordiamoci che Conte se n'è andato via così d'estate, in piena estate, sì, e Marotta quel giorno quando ha portato Allegri, sapendo che ci sarebbe stata contestazione, era lui vicino ad Allegri. Quindi quando hai un uomo come Marotta così a questo livello è importante. Dopodiché i meriti si sono per tutti, ma è chiaro che Higuain è quello che ha dato più continuità. Dybala è stato fuori 80 giorni in questa Juventus, con quasi 3 mesi di assenza. Higuain non ha mai fallito una partita, c'è sempre stato. Ecco perché insieme a Gigi, come diceva Pardo, è chiaro che sono due uomini che fanno poi anche a livello di contenuto, di mente, una differenza. Io la cosa che mi sembra ulteriormente migliorata rispetto al passato è la grande personalità di questa squadra. Stavo passando mentalmente in rassegna, per esempio, la crescita di Alexandro, ma io penso che Dani Alves, Mandžukić e lo stesso Higuain abbiano aumentato il tasso di esperienza, il tasso di mentalità vincente di questa squadra. Ed è una cosa che la Juve 2 anni fa non aveva. Insomma, poi inevitabilmente il pensiero va già alla finale di Champions League. 2 anni fa la Juve l'affrontava l'underdog, la sfavorita, eppure aveva una squadra molto forte. Ormai la Juventus, Pier, Giletti ha stata ragione, la società è il punto di partenza di un grande club. E adesso, prendiamo l'Inter, quest'anno ha sostituito 4 allenatori in continuità. No, cioè Allegri, lo ricordate estremo, che era messo in croce Allegri l'altro anno, 2 anni fa. 10 all'inizio, le sconfitte, il pesante, situazione la Juve era 10 punti. La Juve non si è mossa, Andrea Agnelli non ha fatto mezzo commento. Bravissimo. Gli altri, Massimo, sostituiscono e quest'anno Bonucci, che è Bonucci, abbiamo detto 1000 volte, è finito in tribuna ad Oporto. Questa è la Juventus. La Juventus che, Pier, è arrivata a laddove Conte beffardamente dichiarava non possiamo entrare, cioè al ristorante da 100 euro anche economicamente, e sì, quella non è mai andata giù ad Andrea Agnelli. Conte l'ha detto spesso, aveva fatto il corso, diciamo, di sistema del calcio italiano, però insomma questo, ragazzi, le previsioni si sbagliano. Io credo che fra le qualità di Allegri sia la capacità di gestione delle energie, non che Conte non l'abbia. Conte è l'allenatore più giovane poi di Allegri, non dimentichiamoci questo. Se non è Conte, che è un genio della panchina, non c'è discussione, è cresciuto molto con la nazionale, è cresciuto molto col Chelsea, cioè sta continuando nella sua curva di apprendimento e sta diventando sempre più bravo. Allegri è più avanti da un punto di vista proprio di esperienza, quindi magari un certo tipo di astuzie l'hai imparate già prima in carriera. Secondo me questo, quello che dice Sconcerti, è vero, cioè la capacità anche di far respirare la squadra in certi momenti è importante, e questa cosa Allegri ce l'ha dall'inizio, con un turnover molto ragionato, molto scientifico. La Juve vincerà il campionato magari con 4 punti di vantaggio sulla seconda, o forse una di meno. Ma secondo te sono numeri illusori? Cioè se tu guardi le sconfitte, i passaggi a vuoto della Juve, i pochi passaggi a vuoto della Juve nella stagione, sì, c'era sempre una situazione di tranquillità. Nella prima parte di stagione la Juve ha perso delle partite passando da più 7 a più 4, ma non ha mai perso delle partite. Io non ho mai avuto la sensazione che fosse attaccabile, questo è quello che sto dicendo, insomma, e credo che nemmeno gli avversari abbiano mai avuto la sensazione di poter attaccare la Juventus in questa stagione. So che con Massimo Giletti abbiamo un appuntamento a termine, ma abbiamo ancora qualche minuto. Massimo, guarda, ho spostato tutto, quindi possiamo chiacchierare ancora, non ho problemi. Perfetto, allora ti interrompo un attimo per il traffico e poi andiamo avanti. Tutti convocati. Convocati. Ma innanzitutto aspettiamo che si concluda brillantemente questa straordinaria stagione. Posso confermare e ribadire che da parte nostra c'è grande soddisfazione per quello che ha fatto, e quindi in queste parole c'è tutto, nel senso che noi saremmo contenti di proseguire con lui. Chiaramente ci dovremo incontrare, sicuramente, però la disponibilità è ampia, e io credo che da uomo di calcio quale sono non sia ancora concluso il ciclo Allegri-Juventus, perché abbiamo ancora altri traguardi da conquistare, e chi meglio di lui può interpretare questo ruolo. Incontrarci, credo che in questo momento abbiamo, direi, altro a cui pensare. Non ci siamo ancora incontrati perché c'è da parlare, da capire, confrontarci quali sono le idee, perché dopo alla fine la Juventus è arrivata a un livello talmente alto, e direi che in 3 anni solo una volta non abbiamo giocato per vincere, poi tutte le partite le abbiamo giocate per vincere una competizione, e quindi bisogna essere bravi, lucidi anche in quei momenti lì, a capire dov'è che la squadra si può e si deve migliorare, e non è facile, perché un conto è quando cambi 8 giocatori, un conto è quando devi cambiare 1 o 2. Quello che avete sentito nel montaggio Marotta e Allegri è forse il piccolo punto interrogativo che esce dalla festa Scudetti. Intanto alla compagnia, per Luigi Pardo che è di casa ovviamente, Massimo Giletti, si è aggiunto un grande Antonio Cabrini. Ciao Antonio. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Hai promesso che saresti tornato a trovarmi dopo quel giorno, ti sto ancora aspettando. Un giorno vieni. C'è un po' da fare. Lo so che hai un po', hai le mani piene, come diceva Dan Peterson. No, senti, allora la domanda, io a Pardo l'ho già fatta mille volte, la giro direttamente a Giletti e ad Antonio Cabrini. Non siamo passati dal resterò certamente alla Juventus al ci piacerebbe, dobbiamo parlare, dobbiamo. Tutto sembra appeso ovviamente alla finale di Cardiff. Io ho detto, fossi in Allegri, facessi il triplete, andrei da un'altra parte o al limite verso un anno sabbatico. Non so come la pensate voi, a partire da Antonio. No, l'anno sabbatico lo escluderei, perché lo escluderesti. Guardiola l'ha fatto. Sì, Guardiola l'ha fatto, però non dopo 3 anni. Guardiola l'ha fatto dopo diversi anni che ha vinto un po' tutta Europa, e quindi poi a un certo punto ha deciso di prendersi un po' di vacanza. Se fossi in Allegri, in questo momento è come il detto che dice: l'appetito viene mangiando. È il momento di schiacciare sull'acceleratore. Poi dopo il fatto di rimanere o meno è una scelta assolutamente personale. Ma tu cosa faresti? Beh, sai, ti verrebbe da dire: oh, qui ho vinto tutto quello che c'era da vincere, non c'è più niente da vincere. Quindi se nella prossima stagione non si riuscisse a arrivare agli stessi risultati, magari si potrebbe interrompere il rapporto, però questo non è soltanto un concetto, è un pensiero esatto e idoneo soprattutto per la società Juventus, anche perché comunque ci sarebbe una Coppa Intercontinentale, sì, quindi quindi sarebbero altri traguardi da raggiungere. Poi è chiaro che dopo che vinci un triplete, per poi non c'è più niente da vincere. Esatto, sei arrivato in cima alla montagna. Però dopo dipende più che altro, non è il fatto di vincere o non vincere. A quel punto è il fatto di dire: beh, a questo punto ho dato tutto alla Juve per 3 anni, ho raggiunto il massimo, adesso mi piace confrontarmi in un'altra squadra. È questa la tua paura, Massimo Giletti? Ma intanto secondo me Allegri è diverso da Mourinho, nel senso che sappiamo che lui va e viene via, però è certo anche un altro, se andai storicamente a vedere l'Italia avere una continuità che va oltre i 4-5 anni su una panchina di una squadra di club di livello è rarissimo. Certo la Juve fa eccezione, ma non è il caso di Allegri quest'anno. Rimarrà, alzerà la posta, perché ovviamente sarà anche una questione economica, perché nel momento in cui comunque tu ti siedi ovviamente con 3 scudetti di fila, 2 Coppe Italia, 2 finali comunque di Coppa Campioni, insomma, hai fatto veramente tanto e alzerà la posta un po', ma rimarrà quest'anno, rimarrà, costerà di più credo alla Juventus. Il problema è vedere appunto che se tu riesci a raggiungere tutti gli obiettivi, quanta forza hai nei confronti di questi giocatori, che però mi sembra gente di alta, di alto livello. Poi ritorniamo al caso Bonucci. Cioè, quando un Allegri non guarda in faccia a nessuno e manda in una partita difficilissima, perché io vorrei vedere se la Juventus certo, Porto. No, ma il discorso che abbiamo fatto. Torniamo a monte, cioè quello che dicevi tu, questo dimostra la forza della società Juventus. Sì, dimostra la forza dell'allenatore e poi della società, ragazzi. Certo, cioè, le due cose certo. Insieme. Scusatemi, io volevo aggiungere un'altra cosa, cioè a parte gli stimoli, perché ci devono essere gli stimoli adatti per continuare il rapporto con la Juventus, però non dimentichiamo che l'obiettivo principale di quest'anno della Juventus è quello della Champions League, cioè il traguardo che in questo momento non è ancora raggiunto. Sì, è l'ossessione della Juventus, però con Pierluigi, tu lo sai, abbiamo fatto molte volte questo discorso, la Juventus questa volta ci va da favorita. Attenzione al Real che ieri ha vinto lo scudetto e poi ne parleremo, ha vinto il titolo che mancava da 5 anni. Ci va alla pari. Però l'aria è quella che dice... L'aria è quella giusta. L'aria è quella che dice Juventus, forse anche troppo. L'aria è bella, però insomma meglio che sia bella piuttosto che brutta. Poi io non credo che la Juve correrà il rischio di sottovalutare una partita come questa, di sottovalutare il Real Madrid. È chiaro che questa qui è una partita 50-50, la Juve ha una forza, secondo me una solidità, una compattezza che il Real Madrid non ha. Il Real Madrid ha alcuni giocatori che non vorresti mai dover affrontare, soprattutto in una finale di Champions League. Cioè, secondo me questo è la magia che alcuni giocatori, penso a Cristiano Ronaldo, penso a Sergio Ramos, ma non soltanto a loro, hanno nelle Benzema, partite speciali. Che ieri, nelle partite speciali questa gente quasi mai sbaglia. Scudetto Ronaldo Benzema. A me piacerebbe che Massimo Giletti facesse una domanda a Cabrini. No, a Cabrini gli chiedo solo... Che è più bello dei due? Siccome lui l'ha vissuta la finale di Atene, io vedo un elenco di partite della Juventus nelle finali giocate molto male e anche quando era nettamente favorita, cito Atene perché quella è proprio il livello massimo, ma anche contro Borussia Dortmund fu una partitaccia con formazioni buttate, anche contro il Milan stesso per sostituire Nedved. Lippi si era inventato dei cambiamenti, ecco. Che cosa succede quando si arriva a una finale? Cioè, quegli occhi di tigre ci sono o cosa scatta nel meccanismo della squadra che in questo caso parte alla pari con il Real? E non dimentichiamo che Caprini arrivò a quella finale avendo appena giocato meno di un anno prima e vinto la finale di Coppa del Mondo. Sì, ma la Juve fallì clamorosamente perché quello era l'Amburgo. Fu il fallimento più clamoroso che uno della Juve, secondo me. Ma perché comunque le finali sono partite che di per se stesso partono, sono partite imprevedibili, cioè dipende, cioè a prescindere dalle capacità della forza di uno della squadra, che possa chiamarsi Real Madrid o Juventus, nel senso. Che può succedere di tutto in una finale, quindi ecco perché non c'è mai un favorito. Sulla carta c'è un favorito, però quando due squadre arrivano al termine di un torneo come la Champions League non puoi dire che ci sia una favorita o meno, quindi non è neanche giusto dire si spera in Dio, perché comunque l'hai preparata tutto l'anno e hai vinto tutto l'anno, sei stato bravo tutto l'anno. E dipende dalla mentalità e soprattutto dalle aspettative. Non vorrei che le aspettative fossero talmente pressanti, talmente pesanti da portare sulla schiena che poi vanno a contribuire a livello tecnico e tattico, vanno un po' a contribuire in maniera negativa sull'andamento della partita. E mi sa che voi ne avevate troppe quel giorno. Beh, con l'Amburgo doveva essere una passeggiata per tutti, cioè soprattutto più che per noi, per tutto il mondo bianconero doveva essere una passeggiata. Probabilmente invece scatta quella all'interno, più che delle gambe, all'interno della testa, qualcosa che non ti permette di dovresti giocare come dovresti giocare. Pardo, fondamentali giorni della marcia di avvicinamento, questi giorni. Sì, fondamentali perché non, insomma, perché ogni giorno è importante, ma la verità è che poi tutto verrà deciso da piccoli dettagli e nessuno di noi ha la capacità divinatoria di capire o di scorgere segni particolari. È una partita equilibratissima, è una finale equilibrata, sicuramente già questo mi sembra un traguardo straordinario. È una partita che ovviamente fa tutta la differenza del mondo, ma comunque andrà a finire. La forza del progetto Juve di questi anni è già storica, cioè quello che è successo in questi 6 anni e in particolar modo negli ultimi 3 con le 2 finali di Champions è clamoroso. Poi chiaramente la differenza tra vincere e non vincere è enorme, perché questo è chiaro dirlo, però insomma oggi la Juve arriva a giocarsi una partita alla pari e questo dà il senso della struttura, della solidità in un calcio come quello di oggi, nel quale le distanze si allargano. Bravo, questo ci porta all'ultimo 15, punto. Se non fa errori va avanti per 15 anni. Esatto, bravo. E questo mi porta all'ultimo punto che volevo approfondire con Cabrini e Giletti prima di salutarli, mentre Pierluigi rimane: l'urlo di dolore del calcio italiano, perché la forbice si allargherà ancora. E allora ecco l'impero su cui non tramonta mai il sole. Questo è un problema che non è solo italiano, però è un problema reale, la distanza tra la Juventus e le altre, perché l'anno prossimo arriva al 7, poi l'8, poi il 9, poi il 10, e hai anche il tempo di gestire, sei talmente forte che puoi, e hai talmente tanti soldi che puoi permetterti di gestire il ricambio generazionale in corsa e continuando a vincere, Antonio. Sì, quello fa parte comunque del DNA bianconero. Io vedo che comunque questi anni, a prescindere da Juventus, che era indubbiamente la squadra più forte rispetto ad altre squadre italiane, e quella che comunque ha lavorato in anticipo rispetto ad altre squadre, soprattutto nell'andare a pescare gli elementi adatti che sono cresciuti, sono diventati veramente forti, hanno fatto grandissime cose. E questo è un po' il segreto della Juventus di questi anni. Sicuramente gli altri si stanno svegliando, sicuramente gli altri hanno visto e stanno imparando, stanno anche tra virgolette copiando, cercando di copiare il modello Juventus, perché comunque io non credo che l'Inter, il Milan, il Napoli rimangano, possano rimanere sempre con lo stesso concetto di dire beh, la Juventus è la più forte e noi ci accontentiamo del secondo posto. Sì. Antonio, grazie a voi, grazie davvero, ti aspetto un giorno. Massimo, anche da uomo di televisione, Pardo ha la possibilità di chiederlo in ogni momento, anche da uomo di televisione, se c'è un male per un qualunque sport sono le dinastie, perché il problema è questo. La Juventus, chiediamo aiuto ai cinesi per fare qualcosa a Milano, perché è chiaro che è un prodotto che si va, lasciami dire, deprezzando da un punto di vista agonistico, al di là del tifo. Ma sai come è un po' la televisione, noi continuiamo a comprare format da un signore bravissimo che si chiama De Moll, straniero in televisione, tutti i suoi programmi funzionano, come se noi fossimo incapaci di produrre qualcosa in Italia. La Juventus non si è fatta esterofilizzare, nel senso che ha fatto un programma, ha ragionato, ha anticipato i tempi, probabilmente anche perché Berlusconi era distratto da altro e aveva vinto tanto e non ha capito che oggi era fondamentale ricostruire la forza dello stadio, perché quando per esempio la Juve avrà smesso gli ammortamenti per finanziari per lo stadio, avrà in cassa ulteriori 30 milioni di euro circa, perché mi sembra che sia più o meno questa la cifra che paga ogni anno per il mutuo, che è un mutuo che andrà a esaurirsi credo tra 4-5 anni, quindi avrà un ulteriore grande giocatore da comprare. Come se non bastasse. Programmare, in Italia non siamo abituati a programmare, viviamo la giornata e il paese poi finisce a rotoli perché non c'è capacità di programmare. Chi programma vince, chi rimane a vivere carpe diem fa fatica. Farà fatica. No, non basta la fantasia, Massimo. Ti ringrazio. Grazie, ciao, allora. Ciao a tutti, ciao. Voi, Pardo Pier. Superstar. Ciao. Pardo Superstar, resta, perché un'altra superstar ce l'abbiamo dopo la borsa, ed è non riguarda il calcio, ma ieri nel giorno della festa abbiamo un altro titolo da alzare, riguarda il basket, riguarda il Fenerbahce Istanbul e riguarda Gigi D'Antoni, che è uno di noi e che era stato protagonista di questa prima storica coppa vinta dalla Fenerbahce nel basket. Tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da... Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Tutti convocati. Non è stata solo festa sui campi di calcio, ma è stata festa anche su un altro campo, in uno sport che, come sa Pardo, ma come sanno tutti, molto vicino al cuore mi sta, e cioè il basket. Il Fenerbahce Istanbul ha vinto l'Eurolega battendo l'Olympiakos. I profani diranno Embe, nel Fenerbahce Istanbul una delle superstar è nostra ed è Gigi D'Antoni, che io saluto. Ciao Gigi. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao. Come stanno i capelli? Mi hanno fatto lo scalpo. Sei pettinato come me adesso. Cioè... Non so dove mettere le mani adesso per dargli un senso di capelli. Ne valeva la pena infilare quei capelli nell'Eurolega. Assolutamente. Un fioretto a cuor leggero. Hai fatto tanto in Italia, hai fatto tanto nelle mie esperienze all'NBA, adesso hai preso il massimo trofeo continentale. Qual è la dimensione che ti fa impazzire di più? Questa, secondo me. Beh, ovviamente non voglio fare quello, la volpe all'uva, no? Provare a vincere in NBA è il livello più alto. Però in NBA appunto non ho trovato lo spazio che desideravo, mi mancavano le responsabilità. Il Fener mi ha dato questa opportunità con Obradovic, che è l'allenatore più vincente della storia in Europa, e quindi essere riuscito a contribuire per questo successo sicuramente ad oggi è il momento più bello della mia carriera. Beh, guarda Gigi, su questo possiamo discutere, NBA va bene, però il basket che si vede in Eurolega, a me che appunto sono un appassionato, questo piace pure di più, cioè, e soprattutto questa formula di torneo è qualcosa di meraviglioso, anche se si chiude in maniera brutale sudden death delle Final Four, e su questo potremmo discutere a lungo, però il livello di pallacanestro come gioco che si vede in questo torneo, beh, perdonami, ma a me piace molto di più rispetto a vedere giocare Cleveland Cavaliers. Allora, io sono d'accordo dal punto di vista che il gioco è bellissimo ad alto livello in Eurolega, ed è un livello che ho sempre guardato con ammirazione. Però penso sempre che se dovessimo incontrare noi oggi una squadra, una delle finaliste delle conference, saremmo ancora lontani da quel livello. Però sono anche sicuro che con diverse squadre delle 30 che giocano al campionato NBA esprimiamo un basket migliore, però per il top dell'NBA ancora il top dell'Europa non è vicino come livello. Io ho sempre ripetuto questo da anni fa e ormai da anni, che i giocatori italiani in prospettiva NBA, come era stato ai tempi Gallinari, come si è parlato Gentile, che adesso vabbè perso in un po' di nebbie, avrebbero dovuto fare prima di andare di là uno tipo stage con un grandissimo coach come Obradovic in una grandissima squadra come oggi il Fenerbahce. Questi sono i miei pensieri. Sì, sicuramente Obradovic ti prepara, è una scuola di vita e di pallacanestro. Dopo Obradovic sei pronto a tutto, penso. Però sai, ogni carriera è diversa e ognuno fa le sue scelte, anche a volte bisogna cavalcare l'onda è il momento giusto. Hai parlato di Ale, che però sono convinto che ha fatto bene ad andare adesso a Gerusalemme per rimettersi in mostra e per tornare ad essere il grande giocatore che ha dimostrato di essere. Per il resto comunque sono d'accordo, Bradovic è sicuramente può solo che migliorare un giocatore sotto la sua guida, perché ti mette costantemente sotto pressione, pretende il massimo ogni allenamento, ti salta addosso se non sei concentrato, quindi uno migliora per forza di cose. Quanto finale su che cos'è vincere una coppa così importante col Fenerbahce, perché c'è anche questo elemento, no? Cioè, se il basket NBA è ovviamente anche entertainment, lo sappiamo, soprattutto in regular season. E invece, insomma, vincere una competizione così importante col Fenerbahce in casa, ti hanno già dato le chiavi della città, la cittadinanza turca onoraria. Cioè, no, penso che sia una roba. Ma soprattutto, a che ora finisce la festa e che giorno finisce la festa? Allora, non abbiamo potuto festeggiare troppo perché comunque mercoledì c'è la prima partita dei playoff, sì, e quindi dovevamo essere in condizioni presentabili. Io sono stato comunque a letto alle 8 di mattina, senza festeggiare troppo. Oggi abbiamo l'appuntamento con la dei media, qualche intervista al campo, e poi andiamo col pullman scoperto nella zona del Fenerbahce per un bagno di folla. Però è qualcosa, sai, quando scrivi una pagina di storia in questo sport. A parte personale, perché ovviamente io non ho mai vinto l'Eurolega, ma è la prima volta anche per il club, è la prima volta per una squadra turca, è la prima volta per il popolo del Fenerbahce, che sapete la polisportiva conta milioni di tifosi, e quindi è una cosa che rimane per sempre. Averne fatto parte è qualcosa che ti rende immortale, e quindi è qualcosa di indescrivibile, non ci sono parole. Cioè, c'è gente che non è ancora andata a letto, immagino, che non lo farà per giorni da quelle parti. Può darsi. Spanulis, uno dei giocatori più forti d'Europa, mi sembra un po' sul viale del tramonto, però ragazzi, anche i giocatori che vedi qui sono dei giocatori straordinari, no Gigi? Sì, l'Olympiacos è una squadra di campioni che ha vinto l'Eurolega nel 2012-2013, è una squadra sempre non con i budget migliori d'Europa, ma sono sempre una delle squadre più arcigne da battere. Poi c'è gente come Spanulis, che sono dei campioni, praticamente ha fatto, non so se avete visto, in semifinale ha giocato Maluccio per gran parte della partita contro il CSKA Mosca, che è la corazzata d'Europa, è sempre la squadra che parte sempre per vincere, e nell'ultimo quarto gliel'ha vinta lui, come ha già fatto tante volte proprio contro il CSKA nelle ultime Final Four. Però ovviamente sì, l'età passa per tutti, ovviamente non è più nel prime della sua carriera, però è ancora è un grandissimo giocatore, fortunatamente però ieri siamo riusciti a limitarlo e a fare nostra la partita. Sì, Gigi, dammi qualche parola da me, a parte qualche parola di conforto sulla nazionale, perché io immagino ad esempio la Turchia o la Grecia con Gianni, come abbiamo deciso di chiamarlo io e Pessina, quel fenomeno che sta nascendo nell'NBA, insomma, vedo grandi avversarie, vedo un'Italia che ha te, Gallinari e Berinelli riposati perché non hanno fatto i playoff, tu invece magari un po' più stressato da Obradovic, dammi qualche parola di conforto perché la concorrenza sembra agguerritissima in vista degli europei. Sì, a livello europeo lo stesso, è una pallacanestro altissima, vengono anche appunto i talenti dell'NBA per alzare il livello qualitativo della manifestazione. Io sono un inguaribile ottimista, vedo sempre le cose positive, mi carico sempre per le cose positive, nonostante questo sia un gruppo che non ha mai raccolto nulla di fatto. Io sono convinto che quest'estate abbiamo per l'ennesima volta un'opportunità, poi sta a noi lavorare bene nel raduno, vedere come arriviamo, perché ho capito anche specialmente quest'anno che sì, è importante la tecnica, la tattica, però è importante anche il momento di forma fisico e mentale in cui arrivi nei momenti importanti. Adesso è molto presto per parlarne, bisogna vedere chi saremo, però io penso che è un'altra occasione da prendere per fare qualcosa di buono. E per me, come parlo anche a nome di tutta questa generazione, non vincere niente alla nazionale sarebbe una macchia nella nostra carriera. Che nessuno vuole. Molte volte abbiamo detto una nazionale con più talento di tutti i tempi. Per me un'ultima cosa, poi non so, Pardo, il tuo futuro, la faccio corta, il tuo futuro. Sì, io ho un altro anno di contratto al Fenerbahce, ho l'opzione, come sempre penso a finire la stagione al meglio e parlarne con chi di dovere, come ho fatto l'anno scorso. Però qui ovviamente stiamo facendo qualcosa di bello, è un bellissimo posto in cui stare per giocare a basket, amo Istanbul, però la nostra vita può sempre succedere di tutto, quindi non mi precludo niente, però è doveroso parlare con il Fenerbahce, col coach a fine stagione, parlare di cosa si vuole fare il prossimo anno, quali sono gli obiettivi e decidere insieme. Grazie Gigi, in bocca al lupo per i playoff e complimenti tantissimi per l'Eurolega. vinta. Grazie mille, grazie ciao. A voi, buona giornata. Ciao, ciao, ciao Gigi da Tome. Anch'io vorrei. Ci fermiamo per il traffico, signori, e poi andiamo a un'altra festa, cioè quella del signor Zizou Zidane. Siete tutti convocati, siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Tutti convocati. Con pardon de las damas e di Pierluigi Pardo, io chiuderei questa prima ora dopo Gigi da Tome con gli ascoltatori. Che dici, Pier? Assolutamente. Assolutamente, a partire da Antonello da Latina e Fabio da Brescia. A proposito, ricordo, ma avremo tempo di parlare in settimana, un curioso incrocio che si verificherà domenica prossima. Già, c'è ancora un verdetto che il campionato deve sputare, Pier, quello della terza squadra che retrocederà. Ci sono Palermo, già retrocesso, contro l'Empoli, che sta lottando con il Crotone, che riceve la Lazio. Ebbene, per il famoso paracadute della Lega, sai che in caso di retrocessione del Crotone, che è al primo anno di Serie A, il Palermo beccherebbe 40 milioni di euro per il paracadute, in caso di retrocessione dell'Empoli 25. Fate vobis, ne parleremo. Guarda, no, è la regola assurda, devo dire che la sfiga ci viene benissimo, nel senso che detto questo era difficile immaginare, già ti ricorderai quel Palermo-Verona, ma era difficile immaginare che potesse succedere questa situazione all'ultima giornata. C'è anche da dire che il Palermo ha già dato una dimostrazione di onestà, perché sì, due partite fa ha battuto Genoa e valeva esattamente lo stesso discorso. Vedremo domenica, sì, insomma, sì, però, sì. Però vale la pena parlarne anche per me. Antonello, dica. Sì, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Io sono un tifoso milanista, sì, e ricordo bene la finale di Manchester contro la Juventus, chiaramente. Sì. E mi ricordo, visto il comportamento di ieri della Juventus, cioè quello di non festeggiare in piazza, non uscire col pullman scoperto, eccetera, eccetera, per rimanere concentrati, evidentemente, che Lippi fece la stessa cosa. E mi stupì già all'epoca, cioè il non festeggiare per rimanere concentrati sulla Champions. E poi alla fine successe che non fecero la festa, vennero battuti dal Milan. E lo scudetto passò quasi in secondo piano, perché chiaramente la scena gli fu rubata dal derby italiano di Manchester, eccetera. Sì, certo. Allora... il terzo scudetto non è il terzo o il secondo, il terzo scudetto è il terzo scudetto, e secondo me avrebbero fatto bene a festeggiarlo con i tifosi come si conviene, e poi magari rifesteggiare pure la Coppa, eccetera, eccetera. Prendiamo appunto di questo che dice Antonello da Latina e commentiamo con Pardo dopo Fabio da Brescia, e facciamo tutti e due insieme, così diamo una risposta cumulativa. Fabio, dica. Sì, buongiorno, complimenti alla trasmissione, penso sia una delle trasmissioni per radio migliore. Allora, vai Fabio, vai. Non è... Grazie. è la realtà. Vabbè, niente. Sono tifoso milanista come l'ascoltatore che mi ha preceduto. Una considerazione una risposta veloce da parte vostra. Allora, io mi ricordo che il Milan a cavallo tra il 91 e il 94 vinse tre campionati finali. Quando stava vincendo il terzo campionato, a ottobre aveva 4-5 punti di vantaggio sulla seconda, non ricordo bene, si parlava già di playoff, no? Perché dicevano che il Milan era troppo forte, che il campionato era falsato così, perché chiaramente il Milan era squadra superiore. Ma allora, questi qua, parlo della Juve, è 6 anni filati che stravincono il campionato. Nessuno parla di playoff, né voi, chiaramente dico voi perché... Guardi, io non li vedo i playoff nel calcio, a me sono qualcosa che non piace applicato al calcio, nemmeno in Serie B, sono un fautore... acerrimo dei playoff in altri sport, applicato al calcio è un argomento che non mi appassiona, e credo che comunque non risolverebbe il problema. Pier, rispondi all'autobus scoperto e alla questione dei playoff. Io ti saluto. Ma allora, sul fatto di festeggiare, l'equilibrio fra festeggiamenti e concentrazione, questo è un tema chiave, è un tema quasi di scuola, di tutte le teorie su come si allena un gruppo, su come si tiene alta la concentrazione, anche più più in maniera larga sulle dinamiche che presentiamo sui posti di lavoro, no? Cioè la dinamica bastone-carota, concedere per ottenere qualcosa quando devi gestire un gruppo, ma al tempo stesso evitare i cali di tensione, sì, questo certo. è un tema assolutamente di scuola, e la Juve da questo punto di vista mi pare che abbia in questi anni avuto una gestione molto molto attenta, un po' anche l'abitudine, è chiaro che certo. Se vinci uno scudetto ogni 20 anni è diverso se vinci lo scudetto tutti gli anni. In due secondi, dimmi sì o no, perché scade il tempo. Non piacciono, ma i playoff ci sono nella Champions League, di fatto. Esatto. Champions League a quel meccanismo lì della Coppa Italia. Bravo. Stasera doppio di Chitaca, diciamo. Stasera doppio di Chitaca. Montella, Cerbi, Pazzini, un sacco di collegamenti, Ancelotti, Spalletti, di tutto il mondo. Però ciao Pier, ciao, domani ci sentiamo dopo il GR Moto Motori, Valentino Rossi che ci fa arrabbiare, Real Madrid, aspettateci. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. State ascoltando un programma offerto da Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Devo stare seduto in panchina a guardare. O puoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Convocati. Passaggio sul traguardo. Segna i tre giri alla fine, 32-8 per Vinales, 32-5 per Valentino Rossi. Ancora un po' lontano per attaccare qui. Dentro! Va largo. Ce l'ha fatta e all'interno. Ce l'ha fatta, incredibile. Mamma. Incredibile Valentino Rossi. Attenzione perché siamo veramente alle ultime curve. È di nuovo molto vicino Rossi. Sta chiedendo tutto per tutto. Lo fa lui, lo fa anche Maverick Vinales davanti a lui. È preoccupante la staccata dell'ultima curva. O entusiasmo. Ah! È andato in terra. Esagera. È andato in terra Rossi. No, mannaggia. La corsa perde un suo splendido protagonista in Valentino Rossi, mentre Maverick Vinales c'è e va a vincere. Contentissimo, alla fine abbiamo fatto una gara incredibile, tanto Valentino come io abbiamo fatto andare la Yamaha al 200% oggi, era incredibile il ritmo, non mi speravo che potessimo fare 32 passo di passo alla fine, quasi tutti abbiamo commesso lo stesso errore fine queste 5 gare, quindi dobbiamo restare concentrati e andare al massimo. Sai, era lì e sapevo di avere un'altra occasione, ci ho provato, però è andata male. Peccato perché è stato il miglior weekend della stagione dove ho guidato meglio, dove sono stato più competitivo e è stata la più bella gara della stagione, quindi sicuramente andare a casa con 0 punti è una grande delusione ed è un peccato per il campionato. Ieri non è stata solo la domenica di quelli che hanno vinto, di cui poi torneremo a parlare, visto che c'è anche il Real che interessa da vicino la Juventus, è stata anche la domenica che ci ha fatto infuriare come le pantere. Prima dell'inizio delle partite di calcio abbiamo visto infatti la gara perfetta di Valentino Rossi alle Mans, perfetta fino a quella dannata curva in cui ha commesso quel piccolo errore che ha permesso a Vinales di risuperarlo. E poi, non lo so, un peccato di gioventù, come se avesse avuto di nuovo 18 anni, ha provato l'impossibile per vincere la corsa. ha sbagliato oppure è un buon segno Roberto Ungaro, The Voice? Ciao Carlo, ciao. Tutto a tutti. Io la leggo così, è un buon segno, perché quando diciamo che Valentino non ha la sua età, 38 anni sulla carta d'identità, lo vedi in quei momenti, quando ha fatto quel sorpasso a Vignales, una cosa strepitosa, è il Valentino migliore di sempre, sembra di rivederlo 10-12 anni fa quando faceva quelle cose, poi l'ha sbagliato, l'ha staccata e l'ha ripassato di nuovo, lì doveva accontentarsi, è vero, però vederlo buttarsi dentro così, con quella foga, abbiamo sempre detto che è meno veloce degli altri, ha a che fare con dei ragazzini, e invece ci ha dimostrato ieri che è della partita. Se dovesse vincere un mondiale, se lo merita tutto, non gli ha regalato niente, e non puoi comunque sempre fare l'attendista e stare lì a aspettare. Abbiamo detto che doveva vincere un paio di gare. Sì, adesso diventano tre. Diventano tre. E non dimentichiamoci, perché non si è, secondo me, detto sufficienza. Vignales era bello impiccato, eh? Cioè, ha fatto Vignales impiccatissimo, impiccatissimo. Ma no, ma erano tutti impiccatissimi. Cioè, per questo che ti dico che. Ecco, Valentino è di nuovo il Valentino che conosciamo, che riesce a far impiccare Vignales, che lo riesce a mettere sotto pressione, a dare il ritmo. Ha fatto un weekend perfetto, è vero, quella sbavatura. Però io gli posso solo dar ragione, perché se non rischi non so, è la stessa cosa che scrive oggi sul Corriere della Sera nel suo fondo mio amico Giorgio Teruzzi. A proposito, oggi si è passata la galleria Vittorio Emanuele, c'è Alex Zanardi alla presentazione del nuovo libro di Terruzzi alle 18.30. Comunque, al di là di questo, la stessa cosa che scrive lui, io non mi do pace per quei 20 punti persi che vuol dire anche primato perso in classifica mondiale piloti. Tu dici, abbiamo rivisto, ha dimostrato di avere ancora. Gli si è chiusa la vena, sì. E quando ti chiude la vena, sangue non arriva al cervello. Però dei piloti. È il bello di un pilota come Vale anche quello. Perché quanto tempo però era impossibile, è... Roberto. Era praticamente troppo. Impossibile. Quando gli eri passato davanti, lì doveva accontentarsi. Si è buttato dentro con una foga, non poteva starci dentro. È vero che nel T4 andava bene, quindi poteva. Vero anche che Marquez ha fatto un altro zero ed era un'occasione fondamentale. Doveva capitalizzare. Però quando sei pilota e fai la differenza sei così, altrimenti non fai la differenza, altrimenti sarebbe stato il solito attendista e lì, e invece Valentino fa la differenza anche in quello. Io non mi sento di accusarlo e anzi sono felice di aver visto il Valentino che conoscevo, che forse da troppo tempo non vedevamo. Poi le corse ci sta, tutto può succedere, questi 20 punti spesano come un macigno, sì. E deve, adesso si fa più in salita, è a 23, però ragazzi abbiamo Marquez che è comunque dietro di lui, Pedrosa che ok davanti, vabbè, ma Pedrosa, davanti a Pedrosa non conto neanche nella corsa, c'è Vignales. No, io Pedrosa non lo conto mai perché però vedi che era proprio una questione anche di vita di morte a livello psicologico. Va detto che su questa pista la Yamaha andava come un violino, come un violino. Abbiamo visto anche la gara di Zarco. Attenzione a Zarco, bravo, che come tu mi insegni è un super pilotino. Perché adesso è una costante, non si può più dire che esploat 5 giri davanti, 6 giri davanti. No, ha martellato tutta la gara, è stato lì, è vero che giocava in casa, è una pista Yamaha, ma ormai è un pilota maturo, bisogna fare i conti con lui e sempre, non è più una novità. Quindi... Capitolo Ducati e poi ci proiettiamo sul Mugello, casa di Valentino Rossi sarà una bolgia, una battaglia. Capitolo Ducati ieri. Per me bocciati, non del tutto, però sì, Dovi appena giù dal podio, un quarto, Lorenzo però sesto, quindi minino, ma certo non bene. Da Ducati ci si aspetta di più, ragazzi, non può fare questi risultati, deve essere lì a battagliare anche lei, il potenziale ce l'ha, devono finalmente trovare la luce, vedere la luce da questo tunnel e deve rimanere protagonista lì davanti in modo costante, altrimenti non va bene. Vino annacquato, per Ducati ieri. Mugello, cosa vediamo al Mugello? È lontano, però adesso a questo punto, dopo quanto abbiamo visto ieri, non vediamo l'ora. Sì, e comunque Vale è carico, questa roba qua non l'ha buttata, l'ho dichiarato anche lui. E se dovesse arrivare il miracolo, penso se arrivasse lì, sarebbe festa nazionale, però la famosa agognata prima vittoria di un Vale quest'anno potrebbe arrivare lì e sarebbe veramente un bel regalo, perché... Sai, è una pista comunque complicata, gli piace, è favorevole, è bello, però ogni caso c'è anche la pressione, quindi non è sempre andata bene al Mugello per Valentino, però è una pista dove io temo una reazione di Marquez, perché lì può alzare la testa. Sì, beh, la reazione di Marquez la diamo per scontata, la diamo per scontata, esatto. La reazione di Marquez, quindi, poi vediamo come vanno le Ducati, ci sono diversi interrogativi. Comunque, dimmi, Robin. Una cosa, il campionato è ancora aperto. Ma ci mancherebbe altro, fosse chiuso. La delusione è tanta, perché avere 20 punti è meglio che non averli. Questo lasciamelo dire, sì. A me non passa. Però grazie. Abbiamo rivisto il nostro Vale. Li troveremo per Ciao, strada. Carlo. Grazie, Robin. Ci sentiamo al più tardi venerdì, quando c'è il Racing Team di tutti i convocati con Roberto Ungaro e Leo Turrini, e si parla ogni venerdì dalle 3 in poi di motori, di Formula 1 e di moto mondiale. Allora, un altro sconfitto della domenica, già che abbiamo gli sconfitti li mettiamo insieme. Djokovic, che ha perso con Zverev gli internazionali d'Italia. L'altro giorno parlavamo con Vincenzo Martucci, cosa che torneremo a fare nei prossimi giorni. Diceva: ah, questo Zverev sì, però è l'astro nascente, metà nel computer, perché non lo vedo ancora competitivo sulla terra. Eccola lì, Djokovic battuto, e alla fine parla così. La prima settimana dell'anno era a Doha, ho vinto il trofeo Lasa, ho giocato bene, però più grande torneo, uno dei più grandi tornei nel mondo, quest'anno qui a Roma, ho giocato bene fino a questo match oggi, però ha meritato. Sasha è giovane, però molto potente, gioca con molta fiducia, qualità, molto bravo, molto bravo. Un paio di ascoltatori prima di andare in Spagna. Bartolo da Torino, buongiorno. Eccomi qui, buongiorno Carlo Genta. Un caro saluto particolare a tutti, ma in particolar modo a lei. No, grazie. Grazie per la compagnia che mi fa. Guardi, no, ne ho bisogno, perché sono a letto, ne ho bisogno. Poi, in bocca al lupo. Mi scuso ancora per venerdì, che l'ho disturbata fuori orario. L'ho riconosciuta dopo che ero lei. Io sono quello il colpo d'ala lì, che volevo parlare con Ruggeri, era lei al telefono che mi ha risposto, è vero? Mi ha detto di fare l'email, se non sbaglio, eccetera. Sì, sì. Dica adesso. Scusa, allora, niente, volevo parlare della pubblico. Juve, anche se non sono tifoso della Juve, sono italiano, vorrei che li facciano neri, che vinciamo di brutto, che mi prenda una bella soddisfazione. Che squadra, con che squadra tiene? Ma io per nessuna squadra, sono Juventino. Allora, essendo neutrale, è facile, perché non è facile, ma io sono convinto che stavolta sti ragazzi ce la fanno. Dico, essendo neutrale, è facile augurare il meglio possibile alla squadra italiana. Fosse interista, magari non avrebbero gli stessi pensieri, Bartolo. Ma certo, se uno, però per me sono nel cuore, perché li vedo, li seguo, quando vedo che giocano con questa determinazione, sono molto seri. No, sono da ammirare, a prescindere dalla colore della maglietta che indossano, detestata dall'altra metà dell'Italia. Marco, un esempio da seguire, senz'altro. Marco non vede giallo-rosso. ma da piccolo che cosa vuole? Il Real Madrid le ha rubato il cuore, giusto? No, diciamo che sinceramente volevo sottolineare soltanto una cosa. Sono tifoso romanista, non perché il Real Madrid mi abbia rubato il cuore, invece vorrei fare un po' il salmone della situazione, andare controcorrente, sì, e sottolineare il grosso sangue blu. È un allenatore di sangue blu, Allegri, e lo sappiamo, però le cose che ha detto ieri, e non so, nessuno le ha sottolineate, ma ha detto una grande cosa. E ha detto: se la Juve è arrivata dove è arrivata, pur facendo qualche piccolo, diciamo, momento di incertezza, è grazie al fatto che è stata tenuta sul pezzo sempre da Napoli e Roma, e ha ringraziato pubblicamente in un'altra emittente radiofonica. È veramente Marco, ma volesse Dio che Napoli e Roma potessero tenere sotto pressione la Juventus ancora di più. Cioè, noi abbiamo bisogno, al di là delle bandiere e dei colori che avete a casa, che abbiamo a casa, che ci portiamo dentro e dietro, la mia preoccupazione, l'urlo di dolore di cui voglio parlare questa settimana, è quello relativo a un campionato italiano che rischia di non esistere più per i prossimi anni, perché si allargherà la forbice di nuovo, qui si rischia la germanizzazione, dove il Bayern Monaco aveva fatto 5 di fila, interrotto solo al Borussia Dortmund casualmente. ormai stiamo parlando di club che vanno a quel famoso ristorante che piaceva tanto a Conte e di altri club che non possono economicamente permetterselo, punto. E come diceva prima Giletti, la fantasia non è sufficiente per arrivare lì. Che facciamo? Speriamo in Suning, speriamo in Pallotta, nello stadio di Roma, nei miracoli, nei cornetti, o ci appendiamo a qualcos'altro. È così la storia. Anche in Spagna ci sono, almeno lì ne hanno due di dominatrici, anche se ce n'è una terza che negli ultimi anni si è inserita. Andiamo in Spagna. Fischia tre volte De Burgos Bengoechea, il Real Madrid è campione di Spagna. Per la 33esima volta i Blancos si siedono sul trono. Ci sono voluti 5 anni di attesa, ma forse ne è valsa la pena. E dunque, è festa, è stata festa, torniamo alle feste, è stata festa ieri anche per i Blancos, che da 5 anni invece non festeggiavano il titolo, e questo è piuttosto raro, no Filippo Maria Ricci? Buon pomeriggio, sicuramente, molto raro, due liga su 9. Che è successo? No? Oh. Ah, Skype, stiamo parlando di Skype, sono rimasto sorpreso di sentire. Perché mi senti così bene? Oh mamma mia, sembra che tu sia qui. Sì, che sono lì accanto a te. Sei qui accanto a me, uno dei uno dei miei sogni. Ma che sì, meraviglia. Siamo su Skype. Sì. Facesse parlano. No, parliamo dei Blancos. Da 5 anni non vincevano il titolo, sì. Però qui c'è una storia molto bella, curiosa, interessante. L'allenatore più in bilico del mondo, che si chiama Zinedine Zidane, e che un giorno potrebbe essere confermato, l'altro giorno magari va via. Oh, ragazzi, questo è arrivato 17 mesi fa, ha vinto 4 titoli su 6. Su 6, esatto. Su 6. Potrebbe fare 5 su 7. Speriamo che rimanga un 4 su 7, no? Perché vorrebbe dire. Ha perso la Champions. Però è arrivato in finale. No, poi soprattutto, attenzione, arriva in un momento, era proprio l'ultima carta. Cioè, Florentino era disperato dopo aver appunto, scelto. Appunto, perché, l'ultima, era l'ultima carta. Sì, l'ultima carta è una bellissima carta che ha sorpreso tutti, probabilmente ha sorpreso i calciatori, ha sorpreso Florentino, ha sorpreso noi giornalisti, i tifosi, e bisogna dargli grandissimi meriti. Qui al Madrid, l'abbiamo detto tante volte nel corso dell'anno, non serve, capito, un luminare della tattica, non è che devono fare chissà cosa, qua bisogna giocare decentemente, ma soprattutto vincere e far stare tranquilli i giocatori e il presidente. Basta. E questo ha fatto col suo sorriso, col suo veramente col grande savoir-faire. Stiamo parlando comunque di uno dei campioni più forti della storia, di uno che ha un discreto carisma. Poi che debba imparare a fare allenatore, ma come dicevi tu, a Real Madrid il tattico non serve. No, non importa, qua bisogna vincere, poi attenzione, questo Real Madrid ogni tanto gioca anche bene, comunque ha segnato in tutte le partite, cosa no, di questa Liga non era mai successo, siamo a 63 partite consecutive, e mi sembra importante, anzi 64 perché ne mancherebbe una, quella con la Juventus, speriamo anche lì che si interrompa la striscia. E in generale, e poi lo vedi bene in conferenza stampa, lo vedi bene nei rapporti, è sempre sorridente, è sempre molto tranquillo, molto sereno, e questo ha portato in un ambiente che di solito invece ci mette veramente un nanosecondo a inquinarsi, perché questo è il Real Madrid, l'abbiamo visto tante volte con Ancelotti, con tutti quanti, cioè con Capello. Qui ancora, esatto, ancora non sono riusciti ad inquinarlo, e poi magari succederà, se perdono la Champions, magari ci sarà qualcuno che storce il naso, però intanto questo è arrivato in pochi mesi, no? Due finali di Champions, una vita, l'altra da giocare, la Liga. L'anno scorso è arrivato a un punto poi dal successo in Liga, certo. E contro comunque un Barcellona che è caotico, però ha i 3 migliori attaccanti del mondo, un Atletico Madrid che è sempre lì che rompe le scatole, e insomma grandi grandi grandi meriti, e poi trasmette qualcosa sempre, anche ieri sera io ero lì a Malaga, ero emozionato, e ogni tanto mi scappano le parole in italiano, è stupendo, quando è emozionato parla in italiano. Ed è bello Voi l'hanno innaffiato lì i giocatori. Hanno fatto una festa vera, a differenza della Juventus, sì, dove hanno fatto una festa di una compostezza. D'altra parte, quando vinci, esatto, sei titoli, sei scudetti in fila, ti scappa anche la libido. Voglio dire, c'è un altro. Tardi, Sì, sì, no, non ho dubbi, ma lo fanno per abitudine. Invece, tu insegni. Invece, c'è un altro allenatore che, a differenza di quanto ha fatto ieri Allegri, che ha messo molti condizionali, e anche Marotta ha messo dei condizionali sulla permanenza di Allegri, vediamo che sta a succedere. Ce n'è un altro concupito da molti, soprattutto con i colori nerazzurri, che ha definitivamente messo un punto sul suo futuro: Simeone. Lo periodista mi pregunta continuamente se mi voy a quedar. Sì, me voy a quedar. Resto, punto e basta. Dichiarato pubblicamente. Gli ascoltatori di Radio 24 non sono mai, di tutti i convocati soprattutto, non sono mai stati ingannati. Qui da parte mia, io ho sempre detto che non se ne sarebbe andato. Poi dopo poteva succedere, è chiaro, i soldi sono sempre stati tanti. Magari se vinceva la Champions, però insomma, l'idea era quella di rimanere. L'hanno detto, la famosa foto con la sua donna, il caschetto lì al nuovo stadio. Questa è la nostra nuova casa. Era un passo già eccessivamente per in andare, avanti. Sì, però per andare, esatto, dove? Cioè, va bene, esatto, il ciolismo, va bene la filosofia, esatto, va bene il Che Guevara, Ciolo, sì, però per andare dove? In questa Inter? Bah, cioè, questa, no? Inter, intanto per cominciare, è pronta a spendere una barca di soldi, a coprire di denaro un allenatore, e poi è pronta, secondo me, in linea di massima, se spende una barca di soldi per un allenatore, è pronta anche a dargli una squadra. Non mi sembra una panchina così non lo so. Poco interessante. Ti rispondo con una. L'altro giorno ho intervistato Pellegrino, uscirà domani l'intervista all'allenatore dell'Alaves, è stato all'Inter con in qualità di secondo di Benitez, sì, e lui mi dice: i progetti che partono dall'allenatore a me non mi convincono, e io gli do ragione. Poi lui lo spiega bene. Secondo me ha ragione, ci vuole una società, ci vuole un club solido, e dopo vabbè, devi partire dal club, però l'allenatore a questo punto è la prima pietra da posare, se hai un allenatore con determinate caratteristiche. Che sia. Sì, quello che serva sì, però che sia che tutto adesso dipenda dall'allenatore, poi l'allenatore perde 5 partite e diceva bene, e dopo siamo in appunto, difficoltà. Perde 5 partite, però se è Simeone o se è Conte, non le perde, e se comunque hanno le spalle sufficientemente larghe, però, il credito sufficiente però, anche per perdere 5 partite senza essere cacciati. Filippo, torniamo prestissimo a parlarne. Va bene, dai. Rimaniamo bene in contatto in questo modo, perché è meraviglioso. Skype, stupendo. Senti che bella che linea. Invenzioni tecnologiche. Ciao. Prima o poi imparo a usarlo anch'io. Saluto e ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Ravezzari in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti!